Allora è pronta, signorina? Sì, maestro. Corregga la posizione dell'archetto. Bene così. Fa la mi, re mi fa, attenzione al mi. Mi scusi. Sol si fa, sol la si do la fa. Che cosa mi sta succedendo? Una tenerezza che io non ho provato mai. Lo so che mi sto innamorando, ma non ho il coraggio di confessarlo neanche a me. Innamorato di te, ed ho 30 anni di più. Tu perché guardi me? Hai capito già, io vorrei dirti che forse tu lo sai, un bene segreto e profondo, una cosa dolce che io nascondo dentro me, l'amore più grande del mondo. Nato troppo tardi ormai per un uomo come me, innamorato di te. Ed ho 30 anni di più. Bene, allora ci vediamo dopodomani, signorina. No, maestro. Giovedì, allora. No, maestro, non verrò più. E perché? Ha deciso di non continuare a studiare? No, maestro. Ma perché allora? Perché sono innamorata di lei.